partito al quarto, Giulio, avevi ragione, avevo messo quella ricezione a posto della trasmissione, un po' disattento, dai, non è successo niente. Allora Federico, per te il cambio, si ascolti Claudio Sparviero da Sassari, K. Non lo sento più, eh. E c'è la comparazione. Attento Federico, ci sei ancora? Non so se avete sentito me, ma siete sovramodulati da un QSO spagnolo che c'è qua sul 10 in FM, non riesco ad ascoltarvi. Comunque sia, io vi saluto perché è un po' difficile. Arrivano 9.20, 9.30 gli spagnoli. Purtroppo non mi permette il vostro ascolto. 7.3 a tutti, grazie. QSO, spero di riascoltarvi prossimamente. Ok, ciao Federico, sono io che ti ringrazio per il collegamento, eh. Evidentemente l'amico in FM disturba, sì, è chiaro, lo sappiamo benissimo, poi in questi giorni di propagazione tutti sentiamo il collegamento a lunga distanza, per cui non è escluso che ci possano essere delle interferenze. Grazie ancora a te, Federico, ti mando avanti gli amici per salutarti. Avanti Franco per Federico che sta chiudendo, causa interferenze da parte della FM. Kappa, sì, l'ho sentito. Ciao Federico, ben ascoltato, buon tutto, ce la ascoltiamo alle prossime, alle migliori, sperando sempre che sia una bella propagazione. Avanti Giulio, Claudio. Ok, dai Kappa, ciao Federico, buona serata, grazie per essere entrato e ci riascoltiamo alle prossime. Un piacere averti ascoltato, 5-9 segnale per te, ottima la modulazione. Allora ragazzi, io lo posso chiudere sto baracco, sì o no? Frati, sto arrivando bene? Certo che sta arrivando bene, chiudi, no, non c'è problema qua, chiudi pure che adesso va bene. Ok, dai, va bene, questo è un altro microfono però, Giulio, è tipo il corno del bue, dai, un microfono tipo Turner, però non è un Turner, è un SBE. Pensavo che non funzionasse, invece mi sa che funziona uguale. Funziona sempre bene qua, te l'ho detto l'altro giorno, tu non hai bisogno di tante spiegazioni per farti sentire, per cui va benissimo. Vediamo, c'è l'amico dell'Italia che stava chiamando. Avanti l'amico che chiamava dalla Italia, per la Sardegna, K. Franco, l'hai sentito? Sento, ho sentito Pippo, però non capisco cosa sta dicendo, troppo basso. In mezzo al QRM, è troppo basso, Giulio. Non si sente molto bene, dai. Comunque grazie per esservi dimenticati del sottoscritto, lo so, sono piccolino. Se mi rompo i coglioni mi prendo un lineare da 2 kW e ve lo faccio vedere io. No, Natali, scusa, io sto facendo lavori. Pensavo fossi in QRX, non te la prendere a male. Ti rilancio il cambio e io chiudo questo barrasone, che ci sono un sacco di cose. Anzi, stacco il linearetto, allora così lo stacchiamo direttamente. Ecco qua, l'abbiamo staccato. E niente, riprendi Natali, fai girare tu, dai. Natali. No, QRX, dai. Non avevo annunciato poco fa di QRX, però vabbè, non mi sentite, ciao. Ma se arrivi 9:20 è finita così, non ti sentiamo. Va bene, arrivi benissimo, non ti preoccupare. Esci che chiudo sto barragione, dai. Allora Giulio, lascio questo SBE qua. Sì, lascialo pure. Anzi, ti devo dire che quando hai staccato è anche più chiara la modulazione. Però questo è quello che ho potuto ascoltare io. Andava benissimo anche prima, però così staccato, senza brignaretto, è anche più chiara, più bella anche. Sì, sicuramente, dai. Vabbè, no, l'ho attaccato per non perdermi coso, come si chiama? Quello. Federico, dai. Ok. Sì, Natali, io non so cosa dirti, dai. Fatemi chiudere questa radio, rilancio a Franco. Fra c'è anche Natalino, ma mi sembra che adesso sia in quel rix, non lo so, dai, vedete voi, io chiudo questo barrasò. Vai, chiudi, no, se... Va bene, Natalino io non lo ascolto perché è troppo in mezzo a quel REM, c'ho quel REM molto alto, c'ho 6-7 di quel REM, e non lo ascolto. Se non mi passa almeno 7 non riesco a fidare, a ascoltarlo. Sì, non so, scusa Natalino, io pensavo che tu rimanevi in quel REM, la verità, ma comunque potevi anche intervenire, fare un battere un colpo, così ti avrei lanciato per parlare con quelli di Bolzano e eccetera eccetera, per cui vabbè, dai. Non so, dimmi se adesso rimane in ascolto oppure se vuoi parlare con noi, avanti Natalino. Greco, fare un controllo, Greco, canaletta 10, qui coordinati, avanti l'amico che chiede il Greco sul canale 10. Dai, la città di Sassa di Sardegna che ti ascolta, avanti. Aspetta Giulio, io mi devo allontanare qualche minuto. Va bene. Portiamo di scelta una radio di Sassa. Aspetta Giulia che chiudo questa radio, dai, già sono qua. Natali! Ok, sì, va bene Claudio. Ok, l'amico di Torino, arrivi un po' bassino e non ho capito tutto il tuo passaggio. Ti modula per te Giulio da Sassari, l'amico di Torino, vicino a Torino. Se mi stai ascoltando, batti un colpo, vai. Ok, Sassari, ti ascolto qua, io sono contenta. Posso solo uscire con le civate, tutto lì. Sì, arrivi bomba qui a Torino, Ok, comunque il mio QRZ è Giulio Dollaro, QRA Giulio QRZ Dollaro, avanti col tuo nominativo per cortesia, in questo passaggio ti ho ascoltato bene, sperando che la propagazione si continui ad aiutare, avanti ancora l'amico di Torino. Ok, io adesso ho un po' di QRM molto alto, se in casa non spruzzo le cordialità è ben sentito con la primiera, ok, spero che tutto lì vada bene questa pandemia, qui a Torino purtroppo siamo un po' così incasinati, ma speriamo che comunque viva l'Italia, ok? E Giulio con le scuse. Ok, collega di Torino, sì, beh certo, speriamo bene che questa pandemia finisca molto presto. Qui diciamo a Sassari, perlomeno ieri, già da 5-6 giorni non ci sono contatti importanti, o meglio contagi importanti, non contatti, contagi importanti, però stanno facendo pochi tamponi, quello che si dice, perlomeno adesso vediamo se quello che ci fanno sentire corrisponde a realtà o meno, perché qua non se ne capisce proprio un bel niente. Comunque qua ieri in Sardegna, in tutta la Sardegna solamente 3-4 contagi e basta, nessun decesso, questo è già da 4-5 giorni che funziona in questo modo più o meno. Bene, collega di Torino, non ho capito il tuo nominativo, se me lo vuoi ripetere per cortesia, vai. Papa Giulio, io sono Lino, Napoli, ok, va bene, meno male che ci sono qui, del 27, così ci si può scordare, cordialità di nuovo, quellino ti cordializza con tutti, ok, tutto bene, adesso vai a carica batteria, spero che vai anche tu, speriamo che tutto vada bene, di nuovo un abbraccio, qui tutto coordinato, quellino che ti cordializza, ok, ok Lino, grazie per il contatto, anch'io ti cordializzo chiaramente, è stato un piacere ascoltarti. un pochino di QSB, però diciamo che in linea di massima ho potuto capire tutto quello che hai detto, alla grande anche se vogliamo. Va bene, auguroni comunque, facciamoci entrambi, così almeno sperando che questa pandemia finisca molto ma molto presto, perché è una cosa che dà veramente fastidio, oltre ad aver creato un danno notevolissimo a tutta la nazione. Va bene, ciao ancora Lino, grazie ancora, un abbraccio, buon pranzo, ciao ciao. A Torino non sono messi bene. Certo, è una delle città più colpite, Torino, Milano, Bolzano, Brescia, tutta quella zona lì, sono messi male veramente con questo fatto dei contagi. Anche ieri ce ne sono stati tanti, ce ne sono stati anche tanti decessi, e non sta bene proprio, non sta bene quella zona lì. Lo so, vabbè, speriamo bene, dai, comunque, beh, finalmente l'ho chiusa questa radio, dai, mamma mia che rottura di scatole, ma cos'è le viti che va? C'ha tutte le viti dietro, sotto, sopra ne ha 6 e 6, 12, ai lati ne ha 1, 2, 3, 4 e 4, 8, per togliere, per sfilare il cassone, ma non l'apro più, adesso va bene, mi confermi che va bene, no? Va benissimo, va bene, va benissimo, altro che la Puglia, la grande, no, non c'è problema, figurati. Sì, sì, va benissimo qua. Praticamente ci sono 20 vittine da avvitare e svitare quando è necessario farlo. E vabbè, d'altronde la radio è anche grandetta come dimensione, per cui ci vogliono. Se li hanno messi magari per evitare vibrazioni, sai, quando si trasmette, quando si ascolta, l'hanno messi sicuramente per quel motivo lì, perché se no non credo che ci sarebbe bisogno di mettere tutti con le viti per tenere il coperchio. Li hanno messi perché evidentemente è necessario averli messi. Va bene, oh, qua. Hai visto l'antenna autocostruita come funziona qua? Non c'è bisogno di spendere un mucchio di soldi per comprare un'antenna che costa anche 150 euro, 160 euro per parlare anche col continente, addirittura con l'estero. Hai visto? Si conferma. Già vanno bene le antenne, vanno bene, ha voglia. A volte ci vuole pazienza e voglia di fare le cose. Vabbè. Finalmente qua ho finito, adesso devo mettere i fusibili a un linearetto che ho, che così lo provo, lo tengo, insomma, lo tengo pronto, quindi, giusto per fare qualcosa, dai. Sì, bella radio, mi sto ascoltando con le cuffie e ti dico che è una bella radio, abbastanza. Allora, vediamo, tirando appena appena così, ecco qua, c'ho il Mickey Gain a metà, Mickey Gain a metà e il microfono a metà, guarda che bella che è. Perfetta qua, è perfetta la radio, è di uso, sembra una radio professionale, va veramente bene, ma bene veramente. Ma io sto strappando, mi sembra che sto strappando, perché la lancetta è oltre la linea rossa della LC. No, non stai strappando, va bene. Ah ok, no, perché ho visto che oscilla oltre la linea rossa della LC. Vabbè, dai, comunque. Sì, ma non ci sono dubbi, là. Quando ti stanchi ricordati che quello mi piace. Non credo che ti stanchi tanto facilmente, ma comunque, sai, non si sa mai, uno è meglio che sappia le cose, no? Vabbè, ne teniamo conto, Giulio, vai. Sarà molto difficile, molta gente me l'ha chiesto, però non lo do perché mi piace, una radio funziona molto bene, una radio funziona molto molto bene. Ok, e poi adesso gli ho messo le parole nuove, me le ha date Capri, sta dando modulati 12 watt, dai, l'importante bianca sono una decina, prima ne dava 4 o 5, era proprio a terra, l'ho tutta revisionata, tutta pulita, e c'erano un po', sai, i potenziometri, cro, cro, cro, cro, a adesso sono veramente in ordine. Io ho comprato quello spray, costa 8 euro, me l'ha fatto pagare. 8 euro. Comunque, stamattina c'era anche Gianni, doppio room, da Fusaro. Abbiamo assistito tutte e due ad una cosa, gliel'ha cambiato il microfono, hai visto? Siccome io ho molta confidenza con Marti, mi ha detto, ma tu MB, mi c'era Gianni, ma tu di questi microfoni hai comprato? Ho detto, certo, ne ho comprato due l'anno scorso. Mi ha detto, ma erano così per caso? No, Marti, quello è scaldato praticamente, è rimasto al sole, forse in vetrina, e si è sollevato la scritta, perché quella applicazione che c'è grigia dove sono le scritte è praticamente incollata. Se tu quel microfono lasci al sole, si scolla e si solleva la scritta. Ah, ecco perché, noi non ce ne siamo accorti, sì, domani. E comunque io ho fatto il lonfio, Giulio, non ho detto niente, e gli ho detto, perché mi stai facendo questa domanda? No, perché me l'hanno restituito, l'avevo venduto, me l'hanno restituito, adesso glielo rimando alla ditta. E gli ho detto, infatti, rimandalo e fatene mandare un altro nuovo. Certo, no. L'avevo venduto senza, cioè facendo i furbi, hanno fatto una cosa illecita, non ci sono dubbi, però io ho fatto sempre dall'idea, chi l'ha comprato deve anche guardare, controllare il materiale che compra, uno non è che può andare lì, lasciare i soldi in un negozio e comprare della merce magari di seconda mano senza averne il motivo. Se c'è un motivo, quello lo sapranno loro, eccetera. Ma tu mi stai dicendo che gliel'ha cambiato, vuol dire che va bene così, ci mancherebbe altro. Però, ma quello che intendevo io, ad esempio, ieri sera, era inutile, perché non si può passare qua, e tu mi insegni che nella vita non si può passare dai complimenti che sono stati fatti a quel ragazzino con questo nuovo microfono e poi subito a una critica addirittura abbastanza approfondita da parte di tutti, gente addirittura che io la consideravo addirittura accanita contro questo microfono, non contro il ragazzino, contro questo microfono. E a questo punto uno può anche pensare, ma io ho comprato questo, a voi che cosa me ne frega, io potevo anche pensare quello, io essendo il genitore di quel bambino, di quel ragazzo, posso chiamare anche il bambino, io avrei risposto anche in questo modo, ma cosa me ne frega a voi, se l'ho comprato io vuol dire che mi andava bene comprarlo, tutto io qua, non ha niente né polemica né niente, capito? Sì, no, ma evidentemente tu sei entrato dopo, perché è stato lui a mandare le foto a Roberto, dicendo guarda come mi hanno dato il microfono, quindi pensavamo che non l'avesse manco controllato, capito? Però il discorso tuo non fa una piega, nel senso io compro e prima di comprare controllo se è tutto a posto. Era lì il problema, capito? Nessuno lo stava, e gliel'ho fatto comprare io, l'ho mandato io, e che non gli ho detto vai a nome mio, capito? Perché io l'anno scorso l'ho pagato 59 euro, però nuovo, non così, quello era in vetrina sicuramente, in vetrina al sole, capito? Perché io l'ho visto anche in vetrina quel microfono, può darsi che non era quello, non lo so, e col sole ha scaldato e si è sollevato leggermente, ha fatto una bolla dove c'è l'applicazione quella grigia, non le scritte, capito? E quindi mi ha chiesto a me Marti, e gliel'ho detto, no, così no, non me li hai mai dati a me, agito, a parte il fatto mi c'era già, non te ne avrei comprato. Ma detto, vabbè, adesso lo vendiamo facendo lo sconto, poi invece si è corretta, no, lo mando in ditta e me lo faccio sostituire, tutto qua. No, assolutamente, a me gliel'ho fatto regolare io, perché quando è entrato non andava bene, aveva i toni al massimo, ho detto no, togli i toni, lascia stare senza toni e metti il microfono come lo devi mettere. L'ho regolato io, quindi non c'erano problemi, ma era un discorso di non tanto per lui, perché può darsi pure, come hai detto tu, che l'ha comprato nella scatola e non l'ha controllato, e lì è sbagliato, perché quando si compra una cosa si controlla. Era un discorso di correttezza nei confronti di chi vende e di chi acquista, capito? Tutto lì, Giulio. Vabbè, comunque, gliel'ha cambiato perché l'ho visto io, era lì il microfono, non so se ne ha dato un altro o se gli ha restituito i soldi, non sono stato lì, non mi interessa a me. Sì, qua, ma ha fatto il suo dovere, ha fatto il commerciante onesto, ha fatto, se gliel'ha cambiato oppure gli ha restituito i soldi, questo sicuramente. so, perché a me mi è sembrato poi, cioè ho avuto la sensazione di un accanimento nel confronto di questa gente che come parlava, accanizza proprio, ma non ci sono altri argomenti di discussione da fare, tutta la sera parlando di questo microfono, eccetera, che era stato troppo ben fatto, i complimenti, è un controsenso, è un controsenso, nello senso della parola, io non so la gente come fa ad aprire la bocca e lasciare andare le parole così senza rendersene conto, e questo anche l'intervento che ha fatto Eugenio ieri, era praticamente lo stesso motivo che sto io, la stessa cosa, lo stesso pensiero che sto dicendo io adesso, mi è uguale, non mi sembra che ci sia poi tanta differenza o qua. Vabbè, comunque meglio così che sia andata, se l'ha cambiato, sono contento per lui, perché i soldi non è che scendono dal cielo per nessuno, per cui sono contento per il ragazzo che ha un microfono in grazia di Dio o nelle condizioni che deve essere, tutto io qua. Sì, ma io sono intervenuto solo perché appunto, siccome l'ho mandato io, mi ha dato un po' fastidio, perché a quel punto sarei andato io, li avrei comprato io non lo conosco perché conosco il padre, li ho visti anche da Roberto, l'avrei portato a Roberto, ho detto guarda ti ho comprato il microfono, passa a ritirartelo da Roberto, lasciami i soldi a Roberto, l'avrei fatto io, ma siccome non mi ha interpellato, mi ha chiesto dove posso comprare un microfono da tavolo, e gli ho detto vai da Fusaro che ci sono gli MB più 5 e funzionano bene, io ce li ho, il più 5 e il più 4, capito? Quindi l'ho mandato io, mi è dispiaciuto che gli hanno dato una cosa del genere solo per quello, però sicuramente l'hanno comprato e non hanno controllato, perché altrimenti non è veramente un microfono da prendere, è da dare chi gliel'ha dato, ma comunque nella commerciabilità ha messo insieme l'onestà, perché se gliel'ha cambiato gli ha dato un altro, o se gliel'ha cambiato gli ha restituito i soldi, ha fatto il suo dovere, tutto qua. Vabbè, chiuso il discorso, poi ci farà sapere Riccardino stasera quando rientra. Ok, c'è qualcuno che vuole entrare nel canale 10? Grazie, purtroppo magari non è uscito quel microfono, o qualcuno l'ha messo dentro la scatola e l'ha messo in mezzo ai buoni, perché l'ho comprato anche io nuovo, e me l'ha dato perfetto, magari è stato messo, oppure qualcuno gliel'ha restituito e loro l'hanno preso e rimesso in mezzo alle altre scatole. Sì, fra, può darsi pure, ma si vede che è scaldato dal sole, quello è un microfono che era in vetrina, capito? Era un microfono in vetrina, ha scaldato e ha sollevato leggermente la scritta grigia, ecco, niente di che, però il microfono nuovo si vedeva, l'ho visto e me l'ha fatto vedere, quindi va bene così, dai, ha fatto il suo dovere. Avanti Giulio, dammi un minuto che arrivo subito, che metto a posto i ferri. Sì, d'accordo, qua. Buon assemblaggio di ferri, eccetera. Sì, fra, ma è così, no, fra, perché io ieri sera sono intervenuto, non per fare polemiche, ci mancherebbe altro, perché il barattino serve per discutere e per dare ognuno di noi il suo pensiero sugli argomenti che si trattano, per cui sono intervenuto e ho detto ma per quale motivo vi state accanendo adesso contro questo microfono? Questo ragazzino così me lo scoraggiate anche, io ho detto esattamente queste parole, perché non è possibile, perché alcuni momenti prima gli era stato fatto il complimento a questo ragazzo perché aveva comprato il microfono, e tutti contenti perché lui aveva comprato questo microfono, e subito dopo invece la gente addirittura accanizza facendosi a chi poteva dirne di più. Tant'è vero, io sono entrato con una prepotenza, sono entrato perché cercavo di entrare per questa e non c'era lo spazio per niente, non c'era un attimo di secondo di cosa, di spazio per poter fare break. Pensa che tu, la lancetta dello Smith, tanto tu la radio ce l'hai e capisci quello che ti dico, quando smetti di parlare tu, la lancetta torna indietro, no? Giusto? Beh, non faceva in tempo a tornare indietro dietro che c'era già l'altra persona che stava parlando. A chi ne poteva dire di più? Ecco perché sono entrato prepotentemente con questa parola. Bianco, bianco, bianco, bianco, bianco, bianco. Ecco. Qualcuno sicuramente mi sente, perché non è possibile senza lasciare bianco che si possa continuare a trattare questo argomento dopo che mi sono stati fatti i complimenti a questo ragazzino. Adesso me lo state spalleggiando con questo discorso di questo difetto che c'è nel microfono. Era una cosa assurda, tutto lì, il discorso era lì, ma non per fare polemiche, ci mancherebbe altro. Sì, Giulio, ti ho sentito quando sei entrato, io ero all'ascolto e non sono entrato perché ho visto le cose che stavano scaldando, non sono entrato. Sì, è vero che non davano spazio, era proprio in un modo proprio chiuso, perché faceva in tempo a mollare uno che c'era l'altra portante sopra, c'era. Purtroppo hanno il diritto di parlare così e di schiacciare così. Cosa gli vuoi fare? Tanto glielo dici e fanno sempre lo stesso. E poi ci sono troppe modulazioni lunghe che si tralasciano a un tipo balcone. Sì, ho sentito tutto ieri sera anche di quel microfono, anche se non sento il ragazzo, ma qua non lo sento. E ho sentito tutto, però non sono entrato per quello, proprio perché c'era troppo casino. Infatti è così. Infatti io sono entrato di prepotenza, proprio in quel modo. Fatto, ci sono quelli che mi sovrammodulano, ma ci sono anche quelli che sovrammodulo io. Dunque, allora sono entrato prepotentemente, non so su chi, sono entrato, chi è stato importante, e ho cominciato a dire bianco, bianco, bianco, bianco, bianco, continuamente, proprio per fargli capire che devono lasciare spazio, perché non è possibile che si possa modulare in quel modo. Caspita, stavano facendo la gara, a chi ne poteva dire di più? Proprio con un certo accanimento sentivo, e poi è entrato, dopo che ho smesso io di parlare, che mi hanno fatto entrare e gli ho detto quello che ho detto, è entrato anche Eugenio, anche lui ha detto più o meno le stesse cose che ho detto io, e poi vabbè, è stato ripreso, ma questo è un altro discorso, è solo una chiarificazione che si è fatta, niente di più, per carità, ci mancherebbe altro. Io non riesco a capire, questo ragazzino è entusiasta, con il microfono amplificato, come tutti gli hanno consigliato, ed è giusto, è stato il consiglio che gli ha dato Claudio, vai e comprati un microfono così e così, questo è un consiglio da apprezzare oltretutto, perché tanto perché gli ha dato Claudio, uno che ha una certa esperienza della frequenza, poi allo stesso tempo questo ragazzino contento, e poi invece ragazzi, me lo demoralizzate criticando il microfono perché c'è questa bolla sul collo. Ah mamma, non è il caso, dai, non è il caso, ecco perché sono intervenuto io. Vai Franco. Guarda, se è che gliel'ha cambiato, oppure ho cambiato meno, o gli abbia dato i soldi lì e là. Se davanti a me avrebbe detto, questo lo vedo, faccio lo sconto, gli avrei detto, dai, a me lo vai 30 euro, gli avrei detto. Se me l'avrebbe dato me l'avrei portato via io. Sì, beh, certo, questo è un modo anche di trattare, ma lo può fare una persona che magari hanno visto questa bolla, può essere anche che l'abbiamo visto loro quando l'hanno comprato e non si sono resi conto che quello lì era un difetto, e sai, e tante volte uno compra così senza rendersene conto, pazienza, che poi tutto sommato i soldi erano suoi, non erano di nessuno, sicché è inutile andare a fare tanti commenti su un particolare, cosa ve la putta voi del tutto sommato, non lo so, sta uscendo bene, criticatelo, se sta uscendo male, invece sta uscendo molto bene, se prima sono stato io a dire che stavo uscendo bene, basta, dovevo finire lì, e invece hanno trattato questa bolla che si era verificata su quella lastrina che c'è sul microfono, eccetera, era diventato un argomento di discussione di tutta la serata, ma non è possibile, dai, ma non abbiamo altre idee, non abbiamo altre idee, siamo proprio strani, veramente, mi ci metto anch'io, chiaramente, perché è giusto che sia così. Vai Fra, vediamo dopo se riprende Claudio. Vai Fra. Ehi vabbè, e qua ci vuoi fare, purtroppo la gente quando si punta lì, da un discorso poi non lo porti più fuori, non lo porti, va bene, dai, non è niente, io quando sto cose così non entro neanche, allora mi rimango all'ascolto, oppure Vabbè, che poi me ne sono andato sul 12 a parlare, che c'era Gianluca di Porto Torres, e poi c'era anche altra gente, c'era, che so, ne stanno entrando altri due nuovi, da nuovi, 20 CB da Porto Torres. Sì, io te ho sentito Gianluca, ho sentito, non ci ho parlato io, perché a quell'ora c'era la televisione accesa qua, dunque non potevo, ma con le cuffie ho ascoltato quest'altro amico di Porto Torres, che ricordo una modulazione, però non mi viene il nome assolutamente, quello che stava parlando con Gianluca, uno di questi, sì, infatti mi arrivava anche più forte di Gianluca, però non ricordo chi era, ecco, non, la modulazione non mi è nuova, però non ricordo che è lui. Chi è Emiliano? No, ti ricordi Antonello Chini, il meccanico? Certo me lo ricordo, io li conosco tutti. Modulava quando modulavo io la casa di mamma, lui e anche Emiliano, il figlio di Antonio R20, non mi ricordo, Gavino mi pare si chiama. Sì. No, io lo conosco anche di persona. E poi c'è Claudio, che lo conosci, lo dovresti conoscere. Claudio Ferrari. Sì, li conosco tutti. Modulavamo, io non abitavo neanche, non so se abitano ancora lì, ma non sono molto distanti da casa di mamma, capito? Li conosco tutti, vecchi CB. Fa piacere, insomma, se qualcuno si rimette in gioco, e che sicuramente si stanno rimettendo in gioco, perché ancora siamo un po' rinchiusi a casa, ma come finisce tutto questo baravano, fra nove, non ve torna più nessuno, rimarremo sempre quelli che siamo, capito? Per adesso stanno, adesso mira, c'è Claudio che deve piazzare l'antenna, se deve piazzare poi vediamo un po' come esce. Antonello sta uscendo bene, vedo che usciva bene ieri, sì, l'ho sentito Antonello. È uscito con un 48, prima stavo uscendo con un'altra radio, poi è uscito con un 48, è uscito meglio, era meglio usare sempre quello, però adesso vedrà lui cosa fare. Antonello sempre in officina ce l'ha l'antenna? Penso di sì, ma non c'è più, mi sembra, a Porto Torres. No, non c'è più lì alle Leoni, perché so che abitava lì prima in campagna. C'è in campagna, qua è vicino alla... Lasciamo da Porto Torres, da qua, là. Ho capito. No, Antonello, quello è Gavino. No, Antonello, il meccanico, Antonello Brooks. Antonello Genesi, tu, Antonello Bina. No, lo so di cognome. Sì, Genesi, già ho messo il pronome, Antonello. Ah, io Antonello l'ho sempre conosciuto lì alla cantoniera dei Pidriazzi, dietro, capito? Dietro, lì alla cantoniera dei Pidriazzi abitava. Adesso non so se abita scendendo da Sorso verso Sassari, non lo so. Lì da Sorso scendendo verso Sassari abita Gavino, dove abitava Benito, vicino a Benito. Poi Antonello abita proprio all'ingresso di Porto Torres, non so se si è spostato. Gavino è a fianco a Benito, era Gavino. Sì, ho capito, quindi anche Gavino deve montare l'antenna, però Antonello, sto dicendo, io l'ho conosciuto sempre all'ingresso di Porto Torres, alla cantoniera dei Pidriazzi, agli Leoni, per farci capire. No, non lo so, allora dai, non lo so, io lo so, a meno che allora si è spostato, lui non lo so. Se Antonello quello sto dicendo io, Eugenio bisogna sentire se è lui. Comunque è quello lì, io quello conosco. Poi Emiliano, vabbè, lo so, a Gavino, l'altro Gavino, quello che abita via Balai, quello lo conosco, l'ho visto nascere, perché abitava, è nato proprio lì in via Petronia, o via Petronia o via Ansicco, adesso mi ricordo, non so, la parallela era via abita mamma, abitavano lì loro. Capito? Penso che abiti ancora la mamma lì, sicuramente. Avanti, Giulio. Ok, sì, ma speriamo che continuino ad aumentare il numero di partecipanti a questa frequenza, perché speriamo che non sia proprio come stai dicendo tu, che dopo finita la pandemia che tutti spariscono come prima, speriamo di no, e chi lo sa. Ad ogni modo siamo contenti, almeno per il momento, se entrano, così scambiamo quattro chiacchiere, quando siamo numerosi va anche meglio, dai. Tanto ormai siamo tutti adulti e non ce ne sono più persone che fanno casino come una volta, eccetera. È piacevole sentire anche persone nuove, tra virgolette, nuove nel senso che sono vecchi CB. Dunque va bene così. Bene, bene, bene. Sì, che lo fa. Mi arrivava più forte di Gianluca, mi arrivava, veramente. Bravo, dai, avanti Franco. Capo. Sì. Vabbè, sta modulando con qualche antenna grande, sicuramente c'è la Mantova, come c'aveva prima. Bene, bene. Beh, ragazzi, io vi lascio, che me ne vado giù. Subito pronto a mangiare. Ci sentiamo, buon proseguo, buon tutto e buon pranzo quando l'ho fatto. Avanti Giulio. Ok, ciao Franco, grazie per la chiacchieratina, dai, stasera fate sentire se hai voglia e magari se ci incontriamo in frequenza facciamo quattro chiacchiere. Ok, ciao di nuovo Fra, buon pranzo, avanti Fra. Ciao Fra, cordialità, saluti, buon pranzo e buon tutto, ci riascoltiamo stasera, dai. Ti ho sentito poi ieri Giulio, di sfuggita a Bodri, cosa è successo, c'è scritto bianco, nero, bianco, cos'è? Perché c'era delle modulazioni che non si faceva in tempo a tornare indietro alla lancetta dello Smith, che c'era già qualcuno che stava già modulando, addirittura sovramodulavano proprio nel finale di quello che stavo parlando prima, era impossibile entrarci, proprio per l'accanimento morboso che c'era parlando di questo difetto di questo microfono. E allora sono entrato, ho pensato, beh, a qualcuno sicuramente lo sovramodulo e allora mi sentiranno, e allora sono entrato io in maniera prepotente, per così dire, o maleducata, giudicalo tu come vuoi, dicendo continuamente bianco, che intendevo dire lasciate spazio anche per entrare in frequenza. Tutto lì, poi mi hanno sentito subito infatti e mi hanno fatto entrare, e poi è successo tutto il seguito che già lo sai. Dopo sono intervenuto io perché ero distante dalla radio. Secondo me Roberto è una cosa allucinante, la certe volte io dico aspetta un attimo prima di riprendere, subito tutto, già lo stavo seguendo da lontano il QSO perché ero uscito, sono uscito dal QSO, ero in QRX, però ti ho sentito a te a voce, ho detto ma che cosa è successo? Perché tentavo di entrare, aspettavo lo spazio ma non ce n'era proprio. Non ci crederai, io controllavo la lancetta dello switcher, quando poi mollano torna indietro, no? Lo faceva in tempo a tornare a zero la lancetta, e già dalla metà c'era già qualcuno che stava già parlando. E che diavolo ragazzi, ma quando mai? Non abbiamo imparato a lasciare un minimo di spazio per poter avere la possibilità a qualcuno che vuole entrare per questo. Ecco perché sono entrato in maniera prepotente, proprio sto facendo così, se no non è da me entrare in quel modo per questo. Tu lo sai benissimo, mi conosci da tantissimi anni e sai benissimo come mi comporto, dunque era solo quello. Poi in tutto il seguito, vabbè, poi è un altro discorso. E vabbè, il seguito, dai, l'importante è che, ti ripeto, si sia messo tutto a posto. La sintesi a voi, bianco, pensavo che stavi dando il colore di qualche sai, connettore o qualcosa, no? Non avevo capito, poi ho capito che non c'era spazio per potersi, neanche per potersi muovere. E sai quante volte lo dico io, lasciate un po' di spazio, aspettate un attimo, non parlate uno sopra l'altro, poi chi si sente, chi non si sente. Vabbè, dai, pazienza, ripeto. Speriamo che le cose si sistemino bene e che riusciamo a fare questo dignitosamente un po' tutti, perché in questo periodo ci sono un po' di alti e bassi, ci sono un po' di alti e bassi. Comunque io quando vedo che c'è chiasso, come hai visto ieri, ti ho chiamato per non stare lì a monopolizzare, ci siamo spostati, per fare appunto, per darmi quell'informazione sulle vernici. Vabbè, a te ancora Giulio. Beh, quello lì è un esempio di correttezza, appunto, come ci si deve comportare per questa, in caso di richieste o questioni di una certa lunghezza di tempo, è giusto che sia così come hai fatto tu. Quello è un esempio di correttezza, appunto, come ci si deve comportare. Purtroppo tanta gente, nonostante gli anni di frequenza, non l'ha ancora capito. Prese dalla bramosia e dalla foga di voler dire più di un altro, ma insomma, mettiamo un attimo di spazio e basta, poi parli quanto ti pare ti piace, che te ne frega. Naturalmente sempre mantenendo i tempi dovuti, non parlando un quarto d'ora, è ovvio, no? Questo è più che scontato, ci mancherebbe altro. Però non c'è bisogno che uno faccia il Jack lo svelto o lo Speedy Gonzales con la portante per poter appunto parlare più prima di un altro o avere troppa fretta nella risposta. Non è possibile, dai, no? Non è il caso di fare radio in questo modo, assolutamente. Vabbè. Siamo tornati ai vecchi tempi, dai. Come ti dicevo, che uno chi la dura la vince. No, ma tante altre cose, dai, che vabbè, non voglio essere polemico comunque. Me ne sono uscito dai problemi e poi mi mettono sempre in mezzo, sono sempre io, però a volte sto in quel rix e sento cose allucinanti. Vabbè. Alleluia. Mi ha stancato sto coso, è pesante, mi ha rimesso la prof sulla base, perché sopra c'era il computer, tutta l'altra roba. Insomma è fiancato sto coso, alla fare. Non c'ho posto, adesso mi rimetto l'altra base che ne ho tolto per il vintage, perché altrimenti è un casino. Vabbè, comunque sto cercando le. Ho letto, dove le trovo però i LED, lampadine, oppure lampadinette colorate o LED, le voglio mettere le lampadine un po' meno forti al dattio, perché sono troppo forti, sono bianche, ti piglia la luce quando la accendi. Lo so, se sono LED, guarda che ci vuole la resistenza adatta, se sono troppo bianche, non è che si stanno illuminando un po' troppo e col tempo si fulminano. C'è anche quello da tenere in considerazione. Cosa gli hai aggiunto? Dei LED così, delle aggiunti senza considerare niente? Oh, sono originali, addirittura sai le lampadine che ci sono negli strumenti quali sono, si possono togliere da fuori, tu togli il tappo, sfidi il tappo e cambi, sono quelle a 12 volt a siluro, originali, quindi voglio togliere queste lampadine a siluro normali e metterle dei LED, però colorate, capito, non bianca, magari gialline, con le resistenze naturalmente, sì, con le resistenze, vado a fusare, le compro con le resistenze, c'ha le lampadine, te le ricordi quelle a saldare da una parte e dall'altra, a tutto l'età poi sono queste lampadine bianche a siluro, che non ragazzi, più vici. Sì, ho capito, quelle che erano sostenute dalle due lamelle, una da una parte o dall'altra, sì, ho capito, lo so, quelle però sono da 12 volt credo qua, e devi appunto inserire delle resistenze, perché sennò i LED ti si bruciano, perché i LED già lo sai hanno un voltaggio molto ma molto basso, per cui ci vuole una resistenza di caduta, ci vuole, ma comunque quando lo vuoi fare non è un problema, io ti posso dare gli estremi per fare il calcolo della resistenza in modo da adeguare la resistenza che arriverebbe al LED e che deve essere quella nominale aggiunto per il LED, perché i LED funzionano a 2,5 volt, 1,5 volt, anche 3,5 volt, dipende dal tipo del LED, perché ogni colore del LED ha il suo voltaggio che gli serve per essere alimentato, dunque se supera quel voltaggio si bruciano addirittura quasi all'istante, capito? C'è un lavoro che si può fare, se succede di mettere le LED si inserisce la resistenza prima, io ti do tutti gli estremi come devi calcolare il valore della resistenza, ci metti quella, ci metti in serie al LED e tutto funziona alla grande. Sì. E gliele voglio togliere con la lampadina, perché una volta mi si è bruciata una e non l'ho trovata. Però negligenza mia, stavo pulendo i tappi dall'interno degli strumenti, dai, perché ne ha quattro, insomma, no, strumenti, no, non misurature, strumenti proprio. E invece che ho toccato la lampadina e si è bruciata, allora quella non l'ho trovata, e ne ho messo una piccolina rotonda che fa la stessa luce, bianca, però voglio eliminare tutte quelle a siluro, capito? O le metto lampadinette normali e bianche, come quelle ce le ho, quelle che insomma cambio al Kenwood, che sono quelle piccoline, non so se le hai mai sostituite. Quelle lì normali elimino quelle a siluro, ecco, quello lì volevo dirti. Se no le metto i LED con le resistenze. Ad esempio qua io al Polmar gli ho tolto la lampadinetta che era brutta, era giallina, vecchia, e gli ho messo un LED bianco con la resistenza, però la resistenza era già attaccata a questo LED. Capito? Ed è perfetto, illumina benissimo, si vede bene, non si brucia. È bello, bello illuminato. Lo voglio fare la stessa cosa di là. Quindi compro le stesse resistenze che ci ha attaccato a questo LED, capito? Sì, qua. Beh, certo, comunque ci sono sempre le lampadine anche a 12 volt, grande come può essere più o meno un LED, non proprio così a punta eccetera come il LED, però diciamo che ci sono anche quelli, però non lo so se ci sono colorate in quel caso lì, mentre il LED li trovi colorate, questo sì, non ci sono dubbi, perché ripeto, ogni colore corrisponde alla sua voltaggio di alimentazione. Infatti c'è una tabella, ogni colore ti dà il voltaggio, 1,5, 2,5, 3,5, capito qua? Ecco perché appunto ti dicevo che a seconda del LED che metti si deve adeguare la resistenza giusta per potergli dare quella tensione, se no fa puff subito. E così qua, va bene. Sì, infatti uno come gli ho dato l'alimentazione, all'istante proprio si è fulminato un LED, perché volevo fare di che colore era, però ho visto non c'era resistenza dopo e si è fulminato. Va bene, non fa niente, dai, vado a fusare, adesso non ne ho più voglia. Allora, ho messo a posto quello, l'altro, il Polmar è perfetto, tutto pulito, tutto a posto, adesso già va bene. Sto facendo andare questo, dai, quindi questo microfono lo lasciamo e va bene. Ok, vado giù, dai, vado a dare a mangiare a Filippo che è l'1:10, stacco e poi iniziamo a preparare il pranzo anche per noi. Grazie alle due chiacchiere, saluto Franco, saluto chiunque fosse sul 10, ci riascoltiamo stasera, dai. Ok, a te Giulio, ascolto il finale e poi chiudo. Ok, qua. A stasera, grazie a te per la chiacchierata, anche stasera, anche stamattina ci siamo svagati un pochino ed è tutto sommato anche divertiti. Bene, ciao Claudio, a stasera, buon pranzo, ciao. Ciao Giulio, ciao, buon pranzo anche a te stasera. Thank you.